Salva Danaio di Deborah Rosciani. Mia amica, come posso aiutarla? Buonasera, senta, io volevo chiederle un'informazione. Devo regolarizzare, devo assumere una persona per fare la badante e nulla, quindi... Però non rientra nella regolarizzazione del badante. Sì, no, perché non infatti rientra, ho visto... Perché... Mi dica. Aspetta un attimo che le trovo proprio i riferimenti, perché ci deve essere stata un'assunzione di almeno... 3 mesi precedenti. Quindi lei vorrebbe assumerla in questo caso? Sì, ma adesso, infatti stavo un attimo muovendomi a cercare anche, non so, la documentazione sanitaria, cos'è, devo andare dal medico a farmi dare un certificato, giusto? Sì, aspetti che le dico tutto. Guardi, le do il numero dello sportello unico per l'immigrazione. E può chiedere tutto lì, i documenti che servono. Allora, se aspetta un secondo glielo trovo. Mi può dire dove vive, che gli trovo lo sportello unico per l'immigrazione? Sì, abito in provincia di Como. Adesso le do un numero di riferimento. E allora non siamo impazziti, buona giornata a tutti da Deborah Rosciani. Vi abbiamo voluto far ascoltare un esempio di contatto al numero di telefono di Linea Amica, il call center della pubblica amministrazione, che dovrebbe risolvere tutti o molti dei nostri dubbi sulle problematiche, le questioni più varie legate appunto al nostro rapporto con tutto ciò che è pubblico. Quella che avete sentito era una telefonata di un nostro assistente alla organizzazione di Salva Danaio, Alessandro Longoni, che ha cercato di avere qualche informazione in più rispetto alla sanatoria in corso per colf e badanti. Ma probabilmente molti di voi avranno notato sui giornali e sulle TV in questi giorni una pubblicità, una massiccia, anzi campagna promozionale, proprio quella che invita i cittadini a rivolgersi a questo numero di telefono della pubblica amministrazione per risolvere e rispondere a quesiti più o meno di ogni tipo. Oggi anche il Sole 24 Ore dedica all'argomento l'apertura dell'inserto affari privati. Anche noi a Salva Danaio vi spiegheremo come si accede a questo servizio, soprattutto a cosa serve, perché non è che le perplessità manchino. Lo avete già sperimentato per rivolgere che tipo di domande e in che tempi e modi soprattutto vi sono state fornite le risposte? Se volete raccontatecelo all'800240024. D'altronde solo in agosto questo numero, che adesso vi ricorderemo qual è, ha ricevuto qualcosa come 20.000 contatti, il numero che era stato raggiunto nel bimestre precedente, segno che i cittadini ne hanno fatto un uso massiccio, chissà per cercare informazioni di quale tipo. Allora, stamattina noi parleremo di questo argomento con la collega del Sole 24 Ore, Francesca Milano, che insieme a Rossella Cadeo ha coordinato tutta questa mini inchiesta. Francesca, bentornata a Salva Danaio. Buongiorno, grazie. Nella seconda parte del nostro programma invece ci collegheremo con Carlo Flamand, presidente del Formez, che è il centro di formazione che ha realizzato il nuovo servizio per il Ministero della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, e quindi ci faremo anche raccontare, dopo questa prima fase sperimentale, quali sono anche i progetti per l'autunno, visto che probabilmente, Francesca, saranno state notate anche delle cose che magari non funzionano. Sì. Rispetto a tutta l'attività che è molto ampia di questo, esatto, call center taglia dubbi, l'avete definito così sul Sole, perché? Esatto, sicuramente è un call center taglia dubbi perché risponde a qualsiasi tipo di quesito del cittadino. Se non risponde direttamente, gli operatori riescono a indicare il numero di telefono della scrivania che saprà aiutare, quindi proprio riescono a mandare direttamente all'ufficio competente. Io direi di fare anche un po' di ordine nelle nostre informazioni. Sì. Cominciamo proprio dall'ABC. Come è nato questo numero? Intanto è un numero verde gratuito, Francesca. Esatto, è un numero verde gratuito per chi chiama dal telefono fisso, e poi c'è un numero invece fisso, quindi uno 06, per chi chiama da cellulare. E direi di dargli questi numeri, magari per chi non ha fatto la prova, così, esatto, si mette a farla stamattina. Anche magari per curiosità, infatti. Esatto. Il numero verde è 803. 001, che è quello che abbiamo fatto noi venerdì scorso con il nostro Alessandro Longoni, appunto per fare questi test di cui poi vi daremo anche altra testimonianza. Se invece chiamo da cellulare, che numero devo fare? Da cellulare 06 82 8881. E poi abbiamo un terzo canale per reperire informazioni, che è quello online, l'email. Esattamente, esattamente. C'è un form da compilare proprio online sul sito di Linea Amica. Si possono inserire i propri dati, quindi il proprio numero di telefono e la propria mail per essere ricontattati, e la domanda, quindi il quesito che si vuole porre. Ecco, naturalmente a seconda del canale che si utilizza, anche le modalità con cui si ottengono le risposte sono diverse, perché abbiamo sentito prima ovviamente il canale diretto della telefonata può anche mettere un po' in difficoltà l'operatore che ci risponde. Esattamente, anche noi del quotidiano abbiamo fatto alcune verifiche e in realtà la risposta, o meglio il canale, dipende un po' anche da quanto è difficile il quesito da rispondere, perché spesso gli operatori riescono appunto a dare un'informazione fornendo il numero di telefono da contattare, ma in altri casi riescono a fornire una risposta completa, per cui non c'è bisogno di un'ulteriore telefonata. Per partire subito con il nostro argomento, mi sono dimenticata una cosa molto importante, di fare la borsa questa mattina, anche perché il nuovo orario di Salvadanaio, che è un po' più spostato di pochissimi minuti, appunto invece di mezzogiorno e 10, cominciamo così a mezzogiorno e 15, ma di pochissimi minuti. E allora volevo talmente entrare subito nel vivo del tema di stamattina che mi sono dimenticata un appuntamento, che ovviamente molti ascoltatori non hanno mancato di fare questa osservazione. Parigi, borsa più 1,41%, Francoforte più 1,41%, Londra più 1,30%, Milano più 1,33%, stanno crescendo molto, STM più 4,56%, Parmalat grazie all'offerta di Kraft su Cadbury, la britannica Cadbury. Tutto il settore alimentare si muove stamattina, Parmalat più 3,86%, Impregilo più 3,64%, CIR più 3,29%, Banco Popolare più 2,73%. Il peggior titolo è la ex Autostrade, ed è peraltro l'unico negativo in questo momento a Milano, perde lo 0,4%, l'euro sul dollaro a 1,43,47. Andremo sui temi di Piazza Affari e sui temi di borsa più nel dettaglio poi con il GR delle 13 con Simone Spezia. Noi intanto continuiamo a spiegarvi come funziona questo Linea Amica della pubblica amministrazione. Ragionavo prima con Francesca a microfoni spenti di questi 20.000 contatti che si sono registrati in agosto. Non è che qualcuno avrà scambiato questo nome dato a questa linea telefonica, Francesca, per un servizio di pubblica compagnia? Ma potrebbe essere, diciamo che il ministero del ministro Brunetta ha scelto questo nome anche come dire, per legarlo un po' alle reti amiche, che è un altro progetto del ministero della pubblica amministrazione, per cui insomma, è un po' ingannevole, ma vuole tenere una coerenza nell'operato del ministero. In ogni caso 20.000 contatti sono tanti, anche se rispondono a quesiti di ogni genere, per cui veramente c'è di tutto. Ci sono domande dalla previdenza al lavoro, insomma veramente di tutto, anche alla salute. Ultimamente si sono registrate moltissime domande sull'influenza, l'influenza in arrivo di cui si parla. E che anche tu hai fatto una prova di questo tipo, hai chiesto informazioni. Tra qualche giorno mio figlio tornerà a scuola e ho paura di un contagio, hai chiesto. Sì, esattamente. Mi hanno fornito il numero di telefono del Ministero della Salute, che risponde e dà informazioni appunto sui sintomi e su quello che bisogna fare in caso di contagio. 800 24 00 24, io torno ad invitarvi a raccontarci se avete utilizzato questo servizio, per fare quali tipo di domande e soprattutto in che tempi avete ricevuto la risposta e vi ritenete appunto soddisfatti della risposta che avete ottenuto. Dicevamo dei 20.000 contatti di agosto, Francesca, ma quanti sono stati i contatti invece, le pratiche che possiamo definire aperte da quando il servizio è partito, quindi diciamo dai primi dell'anno, dall'inizio dell'anno, da gennaio? C'è qualcosa come 25.000 contatti, 125.000 contatti? Sì, si considera che ci sono 1.500 contatti al giorno, quindi sono veramente tante le telefonate. Gli operatori del call center di Linea Amica rispondono abbastanza in fretta, perché sono anche tanti, sono molto efficienti e quindi si aspetta pochi secondi prima della risposta. È importante che si aspetta poco, relativamente poco, anche per la risposta al quesito, quindi non solo per la risposta alla telefonata, ma anche per avere proprio la risposta al quesito. In genere, se non è appunto una telefonata, per cui se non riescono a indirizzarti direttamente attraverso la telefonata, via mail riescono a rispondere in circa 6 ore. Mm-mm. Tra l'altro so che anche tu hai fatto questa domanda, come si può usufruire degli eco incentivi per la rottamazione di una vecchia auto e l'acquisto di una nuova. Anche noi abbiamo fatto questa domanda domanda. Sentiamo ancora una volta Alessandro Longoni, è un operatore di Linea Amica. Alla prova, sentiamo. Mia cognata vorrebbe cambiare la sua macchina e vabbè, volevamo rottamarla, comprare un'utilitaria nuova per lei. Volevo sapere se sapevate dirmi qualche novità riguardo agli incentivi auto, come funziona. Se allora c'è... un attimo. Grazie. Allora, ecco qui, abbiamo tutta una serie di fonti. Il veicolo è intestato quindi a sua cognata? Sì, esattamente. È previsto un incentivo per la rottamazione di autovetture ed autoveicoli inquinanti. Sì. E la contestuale sostituzione con autovetture ed autoveicoli Euro 4 ed Euro 5 a basse emissioni di anidride carbonica. Tale incentivo, rispetto a quanto previsto per il 2008, è esteso alla rottamazione di tutte le autovetture ed autoveicoli Euro 2 immatricolati fino al 31 dicembre 99. Okay, e non solo più quelli immatricolati prima del 1 gennaio 97. Gli incentivi consistono in un contributo pari a 1.500 euro. Al contributo di 1.500 euro per la rottamazione di autovetture immatricolate fino al dicembre del 99 è prevista una maggiorazione di altri 1.500 euro se l'acquisto riguarda autovetture particolarmente ecologiche, cioè a gas, elettriche o a idrogeno. Quindi se comprate una macchina a gas, GPL, l'incentivo è di 3.000 euro. Ah, ottimo. Però questo per quanto riguarda le vetture prima del 99 immatricolate. Se invece... sì, c'è sempre questo requisito. Insomma, possiamo considerarla soddisfacente questa risposta? Sì, direi. D'altronde, di sì. Quante sono le risorse umane disponibili presso questo... Sono 200 addetti al momento. Sono ragazzi anche dalle voci che abbiamo potuto sentire piuttosto giovani, quindi non possono essere formati su tutto. Esatto. Ma l'obiettivo è dare... come dire, un indirizzo di massima. Sì, una prima risposta di massima, magari appunto un numero di telefono di qualcuno più specializzato da contattare per avere maggiori dettagli. Ecco, però, allora no, magari i dubbi li solleviamo nella seconda parte di Salva Danaio con il presidente del Formez, che ha messo in piedi tutta questa architettura telematica molto importante, con il dottor Flamman. Intanto sentirei la testimonianza di Sergio da Grosseto, che saluto. Sergio, benvenuto a Salva Danaio. Sì, buongiorno. Allora, grazie di questo intervento. Io mi sono rivolto e francamente devo dire che sì, è efficiente, danno queste risposte. Ringrazio anche il ministro Brunetta per aver dato questa opportunità e per averla estesa anche a tutti i cittadini. Ci dica, sarebbe Sergio, bene, che informazioni le servivano? Ma era riguardo a una multa che avevo ricevuto, tra l'altro, poi a parte che mi sono dovuto poi scontrare io con gli uffici, però insomma mi hanno dato i primi numeri di massima ai quali mi potevo rivolgere e quindi poi tra l'altro era in un'altra città, però dico è molto utile. Certo, la burocrazia andrebbe semplificata, mi immagino il ministro lo sta già facendo anche in tutti gli altri settori, però questo è un numero utile che come primo impatto può semplificare. Lei infatti, perché questo è l'obiettivo, Sergio, no, mi scusi se la interrompo, abbiamo... il tema è che magari molti servizi già della pubblica amministrazione hanno dei numeri verdi a cui potersi rivolgere e dei servizi in sostanza di rapporto con il pubblico, e quindi insomma quello che ci chiediamo noi è che cosa serviva questo collettore generale di informazioni. Ce lo faremo spiegare da Flamman. Sergio, la ringrazio. Grazie. Eccoci ritrovati in diretta a Salva Danaio questa mattina, come spesso facciamo il lunedì, con la collaborazione dei colleghi delle Sole 24 Ore del lunedì, nella fattispecie della pagina di Affari Privati. Affrontiamo un tema che è molto interessante, perché il rapporto con la pubblica amministrazione è stato attivato da qualche mese a questa parte, questo contatto telefonico, chiamiamolo così, Linea Amica, una struttura di contatto diretto con i cittadini, due numeri di telefono, un indirizzo di posta elettronica per rivolgere appunto ad un gruppo di 200 persone messe a disposizione di questo call center tutte le domande che ci gravitano in testa e che hanno a che fare con il rapporto con la pubblica amministrazione, anche se poi, Francesca Milano, abbiamo scoperto che in realtà la gente magari può fare domande anche di altro tipo. Assolutamente. E i ragazzi sono molto disponibili a dare un indirizzo di massima. Certo, rispondono veramente a tutto, a tutti i quesiti che possono interessare una famiglia, un singolo. Abbiamo detto 20.000 contatti ad agosto, 125.000 contatti dall'inizio dell'anno. Carlo Flamman, presidente del Formez, il centro di formazione che ha realizzato questo nuovo servizio per il Ministero della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione. Buongiorno e grazie di essere a Salva Danaio. Presidente, ci sente? Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie. Allora, ci stanno già scrivendo e chiamando gli ascoltatori. Qualcuno soddisfatto del servizio reso da questo call center? Anche Ines di Firenze ci scrive: un buon servizio. Era una domanda tecnica sulla legge sul controllo della caldaia domestica. La risposta è stata utile. I 125.000 contatti registrati fino ad ora, Presidente, sono, come dire, quanto avevate stimato di registrare? Vi aspettavate qualcosa di più, visto che ancora parliamo peraltro di una fase sperimentale della linea amica? Sì, sì, no, avevamo pensato che appunto i primi 100.000 contatti corrispondono poi a 60.000 pratiche più o meno complesse, erano un buon inizio, un buon test. Abbiamo conclusi con un livello di soddisfazione del 97 qualche cosa per cento, quindi direi che adesso siamo pronti anche per un incremento di attività anche sostanzioso. Ecco, che indirizzo va a questo incremento di attività? Perché noi prima ovviamente non vogliamo parlare di una cosa che va tutta bene per forza, perché stiamo appunto parlandone da una trasmissione radiofonica. Volevamo capire anche quali sono in qualche maniera le inefficienze che avete scoperto in questi mesi, perché capisco che i ragazzi che sono a disposizione del call center siano preparati e molto disponibili a dare un indirizzo di massima a chi chiama su come risolvere le questioni, ma non danno ovviamente una risposta valida al 100%, perché è impossibile darla. Quali sono, come dire, le lacune che avete esplorato e sulle quali è necessario operare appunto miglioramento? Quando col ministro Brunetta abbiamo pensato di attivare questo servizio, non si era ritenuto che si potevano risolvere naturalmente tutti i problemi dell'amministrazione pubblica, ma il punto focale è dare al cittadino, che chiaramente trova anche difficoltà a districarsi nei meandri dell'amministrazione, un esperto che lo accompagna, che lo indirizza, che gli dice quali sono i tanti servizi efficienti che tante amministrazioni danno per telefono. Spesso ci richiamo negli uffici senza sapere che quello stesso servizio può essere svolto via computer o via telefono. I nostri esperti, come prima fase, ti guidano quindi a conoscere tutto quello che esiste e indirizzarti al numero giusto, alla persona giusta. La seconda fase, quella più complessa, scatta quando anche l'amministrazione giustamente interpellata o a cui sei stato indirizzato non è in grado di risolvere il tuo problema nei tempi che il cittadino si aspetta. Allora lì subentra la seconda fase di linea amica, che cerca di verificare il motivo per cui magari esistono disservizi. Ti hanno detto che entro un mese potevi avere quel cambio, quella pensione, quel cambio di residenza, quel documento, entro un mese poi non c'è per qualche motivo, oppure hai degli altri ritardi. A volte più amministrazioni incidono sullo stesso provvedimento. In questo caso linea amica subentra cercando di verificare il nodo, di scioglierlo, e mantenendo sempre una trasparenza sul cittadino che viene aggiornato su tutto. Evadete tutte le domande, anche per esempio mi riferisco in particolar modo a quelle che arrivano attraverso la linea di posta elettronica, Presidente? Assolutamente, attraverso la linea di posta elettronica vengono prese in carica il giorno seguente immediatamente. Chiaramente con la posta elettronica il cittadino può essere più preciso nell'esposizione della sua pratica e quindi avere una risposta più precisa. A volte per telefono non riesce a dare quei 4, 5 minuti, 6 minuti della conversazione e tutti gli elementi. Allora suggeriamo, dove possibile, inviare per mail, perché viene poi richiamato, viene ricontattato, comunque riceve in ogni caso. Il numero verde 803001 è gratuito per, esatto, gli utenti. 803001 è gratuito, e poi c'è il numero dai cellulari. E questo non lo è, ecco. Secondo le varie tariffe dei gestori, che è lo 06 82 88 81. Presidente, so che lei è stato particolarmente soddisfatto di come Linea Amica ha funzionato durante l'emergenza Abruzzo. Perché? Ma con l'Abruzzo, con l'evento del sisma, abbiamo potuto subito verificare una messa in linea diretta, di linea amica con i cittadini di Abruzzo, si sono trovati ad aver bisogno chiaramente di tutto, di tutta l'amministrazione. La prima volta era colpito un centro, un capoluogo, e quindi tutti gli uffici amministrativi erano in quel momento colpiti. Da aprile ad oggi abbiamo avuto circa 60.000 contatti con l'Abruzzo, quindi una mole enorme. Abbiamo aiutato gli allacci del grande per 8.000 famiglie. Abbiamo fatto il fabbisogno, il censimento per il fabbisogno abitativo, altre 12.000 famiglie. E naturalmente una guida utile per il cittadino su tutte le misure che il governo mano a mano varava. Quindi in prima linea al supporto, e si è visto che quando c'è l'emergenza l'amministrazione italiana riesce a dare il meglio di sé, mentre in tanti altri casi notiamo ritardi e difficoltà di fronte ai casi critici come l'emergenza. Devo dire che abbiamo dato un'ottima prova. Uffici distrutti della Previdenza, INPS, INAI, INPS, sono stati in grado di rimettersi in piedi e dare risposte in tempi molto rapidi. Insomma, avete tentato di sopperire a tutto quel lavoro che lì sul campo non si poteva evidentemente più fare necessariamente a causa dei palazzi distrutti, linee telefoniche che mancavano e tanto altro ancora. I settori più gettonati, dato questo primo bilancio che anche il Sole 24 Ore fa questa mattina relativamente al funzionamento di Linea Amica, ci indica, ce lo diceva anche Francesca Milano prima, come per esempio l'ambito previdenziale, il tema delle pensioni, sia in assoluto quello di maggiore interesse fra gli utenti e anche i fruitori di Linea Amica. Presidente, insomma, cosa vuol dire che per esempio laddove le istituzioni preposte alla gestione di queste problematiche non funzionano, quindi ci si rivolge a voi come risolutori di ultima istanza? No, questo lo voglio precisare, che devo dire che sia INPS, INAI, le INPDAP hanno dei centri di servizi efficienti e fanno parte della rete di Linea Amica. È solamente che la previdenza è la principale preoccupazione dei cittadini italiani, coinvolge un numero crescente di persone, quindi noi riceviamo un 30% delle domande, delle pratiche relative alla previdenza, proprio perché è comunque l'argomento con cui il cittadino si interfaccia di più con l'amministrazione. Infatti, non è per la loro inefficienza. Poi è chiaro che ci sono ancora alcuni nodi, per esempio dipendenti che hanno metà carriera pubblica e metà privata, più complessità a ricostruire la loro carriera fra INPS e INPDAP, oppure dove intervengono cambiamenti particolari, matrimoni con cittadini stranieri. Ci sono una serie di altre motivazioni che possono rendere necessario un intervento più mirato, e noi sollecitiamo, abbiamo con la rete dei nostri partner, perché questi che citavo sono tutti partner di Linea Amica, quindi fanno parte del network, quindi collaborano a pieno titolo con Linea Amica, perché nel complesso, anche attraverso i loro call center, la risposta sia più. Infatti, quante strutture pubbliche, Presidente, sono collegate al vostro network? Sono 560 strutture pubbliche che hanno o dei centri, dei call center veri e propri, o degli URP, cioè degli uffici di relazione con il pubblico. E queste 560 strutture della rete di Linea Amica hanno ogni giorno mediamente 250.000 rapporti con i cittadini, quindi capiamo che mole di contatti che vengono svolti per telefono e via web dalle amministrazioni. Ogni giorno una fetta così grande di cittadini ha bisogno di un chiarimento, di una domanda, di un servizio. Ecco, io allora inviterei anche questi cittadini a chiamarci e raccontarci la propria esperienza di attivazione di questo contatto con Linea Amica. Questo numero, il nostro, è l'800240024. Raccontateci se oltre al nostro avete utilizzato anche questo della pubblica amministrazione, l'80300024. 0101 per chiedere che cosa e che risposte avete ottenuto, se gli standard di risposta che sono stati promessi vengono rispettati e quindi se è un canale che ritenete utile, perché io penso che il presidente Flamand stamattina abbia accettato anche questo nostro invito per ascoltare le perplessità dei cittadini. Se stamattina stiamo dando i numeri verdi in abbondanza ai nostri ascoltatori, noi rimaniamo con quelli che ci servono per Salvadanaio, l'800240024 per raccontarci le vostre esperienze, se avete provato a contattare invece il numero di Linea Amica, la struttura di contatto con la pubblica amministrazione per risolvere o comunque darci un indirizzo di massima su questioni di varia umanità, e abbiamo sentito anche quali possono essere le tipologie di quesito che possono interessare maggiormente la gente in questo momento. Si può trovare risposta, noi prima parlavamo, Francesca Milano, di pensioni, di sanatoria delle badanti, abbiamo parlato degli incentivi auto, si può parlare anche di casa, in salute, questa casa, si può parlare di anche tutto. Sì, l'influenza. Sì, e una cosa importante è che gli utenti possono cercare attraverso le domande e le risposte pubblicate sul sito internet di Linea Amica se c'è già qualche risposta a un quesito simile al proprio, quindi si può cercare già qualche informazione di massima, ecco. E c'è anche il voto poi alla risposta. Sì, assolutamente, perché attraverso gli emoticon, quindi le faccine con il sorriso o con la faccia arrabbiata, diciamo, gli utenti del sito internet possono votare da esprimere il proprio gradimento al servizio ricevuto, che è quello che credo sia di maggiore interesse per il ministro Brunetta. Presidente Carlo Flamand del Formes, il centro di formazione che ha realizzato questo servizio, quindi a voi interessa soprattutto capire qual è il giudizio del cittadino nei confronti. Ecco. Poi l'altro tipo di azione che svolgiamo è che dove vediamo che decine di cittadini hanno quello stesso problema, quindi se ce lo segnalano e ci segnalano naturalmente anche i casi negativi di funzionamento dell'amministrazione, questo serve oltre che per aiutare il loro caso in particolare, dagli input al ministro Brunetta per proseguire nell'azione di cambiamento dell'amministrazione che sta portando avanti. E infatti, quindi anche noi, insomma, ci piace raccontare di questa iniziativa proprio per questo motivo. I servizi ci sono, noi mettiamoli alla prova, poi se non funziona, naturalmente fra qualche mese saremo in grado di poterlo dire, intanto però finché ci sono utilizziamoli. Anna Maria da Roma, lei ci sta provando ma non riesce? No, non riesco assolutamente. Io la ringrazio e veramente complimenti, perché è un piacere sentirla. Grazie Anna Maria, ci racconti cosa... Per la sua competenza. Volevo dire, ho passato veramente innumerevoli ore. Io come mezzo di comunicazione ho solo il telefono fisso. Sì. Per cui 803-0001 è un optional. No, volevo, perché ha dato lo zero in più. Che magari si può provare con più facilità, o se c'è un altro certo telefono. No, Anna Maria, mi sa che lei sta sbagliando a comporre il numero, perché è 803-001. Forse ha messo uno zero in più? No, sei numeri, 803-001. Ah, ecco. Perfetto. Mi dà subito occupato, proprio neanche si finisce. Anna Maria, noi invece, guardi, facendo questa prova venerdì scorso con Alessandro, abbiamo fatto queste registrazioni, di cui adesso vi farò sentire un altro paio di esempi, ci siamo riusciti abbastanza rapidamente. E diamo questa indicazione al presidente Flamand. Francesca, tra l'altro, quando è contattabile il call center? Sì, il call center è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17. Presidente Flamand, sarà il caso di ampliare un po' l'orario in cui mettere a disposizione questo servizio? Già l'estensione dalle 9 alle 18, già dalla prossima settimana, perché rientriamo a un orario, quindi poi arriveremo dalle 9 alle 20. Benissimo, quindi. Siamo aperti il sabato e anche la domenica, ma solo per l'Abruzzo e per le emergenze, naturalmente, per dare la precedenza a loro. Io inviterei la nostra ascoltatrice magari a provare adesso, forse sembra strano, perché solitamente, tranne nel momento in cui escono degli spot televisivi, allora magari arrivano i picchi di telefonate, ecco. I picchi, per il resto mediamente nell'arco di un minuto il centro risponde. Benissimo. Presidente, 200 persone che adesso sono attive presso questo call center, sono ragazzi giovani, come li avete formati? Chi sono queste persone che ci aiutano nel risolvere le problematiche appunto che ci interessano? Allora, quindi la metà di quelle 200 persone, quelli che affrontano i casi, sono già dipendenti Formez da sempre, persone che quindi conoscono la pubblica amministrazione nei suoi vari risvolti, quindi in questo modo ti possono aiutare a muoverti nei suoi meandri. Per quanto riguarda il front office, abbiamo pescato sempre per persone che avessero lavorato con il Formez e quindi avessero già esperienza, fra giovani laureati o con master, o persone che avessero già un'esperienza in alcune amministrazioni locali, nei comuni, nelle province, nelle regioni, in modo da avere non comunque personale nostro dipendente, cioè non un servizio dato in outsourcing, ma creare un know-how permanente al servizio del cittadino. Allora, sentiamo intanto quest'altra prova che abbiamo fatto. Alessandro Longoni ha fatto qualche domanda relativamente ad un tema che non è attinente all'attività della pubblica amministrazione. Sentiamo come se la sono cavata gli operatori. Come posso aiutarla? Io sono dalla provincia di Como. No, non vedo Rai 1. Vediamo. Può dare un po' di spiegazioni? Devo obbligatoriamente prendere il decoder, vero? Sì, sì. No, allora aspetti, per faccio capire, perché non sono a conoscenza delle province. La provincia di Como ha adottato il digitale terrestre, giusto? Non lo so, glielo chiedo a lei, francamente. Allora, vediamo, perché di solito col digitale terrestre in realtà sono andati in digitale terrestre sul satellite solo Rai 2 e Rete 4. Poi che succede? Che Rai 1 c'è stato uno spostamento di frequenza, per cui molti che non hanno... si vede Rai 2 e Rete 4? Sì, Rai 2 e Rete 4 sulla mia televisione normale si vedono bene, però Rai 1... Allora non è un problema di digitale terrestre. Non ho il digitale terrestre, però vedo male Rai 1. Ora vorrei tornare a vedere bene Rai 1. Cosa devo fare? Devo comprarmi il decoder? Su questo io non... No, perché non so se è un che tipo di problema c'è. Non so se è un problema di antenna, se... quello è il problema, noi non ci occupiamo di queste cose, noi ci occupiamo dei problemi del cittadino con la pubblica amministrazione. Quindi io non posso cercarle un numero di telefono, vediamo se posso darle qualche riferimento. Chi è che posso contattare eventualmente per questo tipo di problematiche? Allora, vediamo. Forse l'autorità garante delle telecomunicazioni potrebbe chiamare, perché le spiego, non è un servizio di supporto al cittadino per la pubblica amministrazione, quindi questo essendo, cioè non sono cose che ci riguardano, certo. Però vediamo, io glielo trovo lo stesso. Allora, provi a chiamare l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, perché loro le sanno anche meglio dire. Io credo che non sia un problema di digitale terrestre, perché le ripeto, non avrebbe dovuto vedere oltre Rai 1 anche Rai 2 e Rete 4, quindi questo è un problema di antenna, questo è un problema di qualsiasi tipo. E insomma, quindi in questo caso forse è meglio chiamare un antennista, un altro tecnico, non il numero verde della pubblica amministrazione. Presidente Flammani, insomma, abbiamo capito che ci sono sicuramente ragazzi pieni di buona volontà, molto disponibili e gentili, che in qualche maniera un indirizzo ce lo danno su quello che dobbiamo fare, però gli standard vanno sicuramente migliorati. Questo sarà il vostro impegno per l'autunno e il primo impegno di Linea Amica, non appena abbiamo chiuso questa telefonata, quale sarà per lei? Ma quello di fare in modo che le circa 1000 domande più frequenti che giustamente voi come Sole 24 Ore avete segnalato, su cui i cittadini possono già trovare delle risposte nel sito web, siano diffuse anche alle stesse amministrazioni, in modo che diventi automatico che alcuni servizi che sono naturali non obblighino nemmeno il cittadino a dover fare la domanda. E per esempio nel caso in questione di questa domanda, che Rai 1 ha spostato leggermente la sua banda. Quindi lei sarebbe stato in grado di rispondere, Presidente? No, l'abbiamo approfondito proprio perché sono arrivate nell'ultima settimana alcune domande di questo tipo, quindi negli ultimi giorni c'è stato uno spostamento. Allora, le amministrazioni, le singole amministrazioni, l'impegno è che man mano che noi riceviamo queste richieste le passiamo alle amministrazioni in modo che si attrezzino automaticamente a dare questo servizio. Presidente, grazie molte per essere stato con noi in una mattinata anche un po' complicata, perché so che è a Napoli per lavoro e comunque si è reso lo stesso disponibile per Salvadanaio e Radio 24. Buon lavoro, ci risentiamo tra qualche mese per un bilancio un po' più completo della vostra attività. Grazie, e chiedo ai, naturalmente agli ascoltatori di segnalarci sempre anche ipotesi di miglioramento anche per il nostro. Noi ci faremo da tramite per questo circolo di informazioni. Francesca, ricordiamo prima di salutarci i numeri, perché gli ascoltatori ce lo stanno chiedendo, ma poi monitoreremo anche il funzionamento, per carità del cielo, perché qua mi stanno dicendo ovviamente a cosa serve Linea Amica, perché avete dato tutto questo spazio, e allora non raccontiamo niente, qua teniamo i microfoni spenti. Francesca, i numeri e poi saluti. Allora, il numero da telefono fisso è 803-001, mentre dal cellulare si può fare lo 06-82-8881. Invece per il contatto email io vi invito a guardare il sito www.lineamica.gov.it e lì c'è tutta la procedura per poter inviare anche delle domande attraverso il canale telematico. Grazie a Francesca Milano. Grazie. Salva Danaio torna domani. Io ringrazio oggi particolarmente Alessandro Longoni, che si è un po' attivato sul fronte delle telefonate al centro, Gaia Romani in collaborazione in questo momento ai telefoni e Filippo Aureggi per l'assistenza tecnica. A domani, buona giornata.